Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche e soprattutto di manovra nel doppio fronte della valutazione che oggi Bruxelles ha fatto delle varie manovre, di stabilità o leggi finanziarie come si chiamava una volta, e nello specifico poi parleremo di quella italiana. Rischio di non rispettare i requisiti del patto dell'Unione Europea per la manovra italiana, rischio condiviso tra virgolette con altre manovre di bilancio, quella del Belgio, di Cipro, della Lituania, della Slovenia, della Finlandia. Il giudizio viene rinviato a primavera, ma come molte volte abbiamo già raccontato, poi ne parleremo, il vero appuntamento è quello di carattere politico, quindi il vertice Eurogruppo di dicembre, perché poi la Commissione Europea prende atto anche dell'accordo che si dovesse registrare tra i vari capi di governo dei paesi che aderiscono all'area euro. Però insomma, di questo parleremo, mentre sul fronte della manovra, ma inteso come contenuti della manovra, ci sono un bel po' di novità, nel senso che da un lato la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio, e quindi voti a favore 272, contrari 137, astenuti 2. Adesso il testo va all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, quindi la Camera ha approvato la conversione in legge, manca il Senato. Il decreto fiscale è quello, ricordo, che ha le novità relative alla per esempio famosa rottamazione delle cartelle Equitalia e quant'altro. Le principali misure infatti sono abolizione di Equitalia e suo assorbimento nell'Agenzia delle Entrate, rottamazione delle cartelle anche per i ruoli 2016, contribuenti che hanno cartelle di Equitalia datate dal 2000-2016. Cosa vuol dire rottamazione? Estingui il debito col fisco senza le sanzioni e gli interessi. 5 rate, 3 nel 2017 e 2 nel 2018, ne parleremo. E poi le rottamazioni anche per le multe dei comuni quindi che non utilizzano Equitalia per la riscossione. Addio agli studi di settore, arrivano gli indici di affidabilità e poi la voluntary disclosure bis, quelli che alcuni hanno chiamato condono mascherato, ma insomma per le violazioni fino al 30 settembre 2016 potranno essere regolarizzate fino al 31 luglio 2017 sui capitali detenuti in Italia anche da chi ha già aderito a quella sui capitali all'estero. Allo stesso modo chi ha presentato istanze su somme detenute all'estero potrà aderire alla volontari per contanti in Italia. Queste alcune delle novità. Poi 600 milioni in più di euro attraverso le regioni per i comuni che accolgono un numero elevato di richiedenti asilo, che accolgono i richiedenti asilo, scusatemi. Questo per quello che riguarda il decreto fiscale, dicevo. Poi c'è la parte della manovra finanziaria intesa come legge di bilancio, che ha altre novità, perché oggi il Premier Renzi ha annunciato che le aziende che sceglieranno di assumere al sud avranno la decontribuzione totale, come avvenne nel primo anno del Jobs Act sostanzialmente. Allora, la misura vale 730 milioni di euro. Se ricordate la decontribuzione che partì prima del Jobs Act, perché nel 2015 iniziò a gennaio, il Jobs Act poi diventò legge a marzo, ma prevedeva fino a un massimo di 8.000 euro per 12 mesi di decontribuzione che non paga l'imprenditore, va a carico della finanza pubblica, infatti vale 730 milioni di euro e sarà appunto nel 2017 per chi assumerà a tempo indeterminato o in apprendistato giovani tra i 15 e i 24 anni e i disoccupati con più di 24 anni privi di impiego da almeno 6 mesi, cioè deve essere disoccupato, avere almeno 24 anni e non avere un lavoro da almeno 6 mesi. E di questo parleremo nel corso del programma. Poi il fronte quindi europeo e il fronte interno alla manovra con la parte del decreto fiscale. Mentre per quello che riguarda la borsa, vedo già che alcuni di voi mi chiedono sulla borsa, Allora, meno 0,70% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,70% Francoforte, e si può dire in questo caso che Milano è assolutamente allineata alle altre borse europee. Mezzo punto percentuale lo perde Londra, mentre Popolare di Milano meno 4,70%, Banco Popolare meno 4,60%, Unicredit meno 4%, UbiBanca meno 3,5%. Il fronte opposto da chi è rappresentato da Yux Net-a-Porter più 2,70%, Fiat Chrysler più 2,60%, Italgas più 1,20%. Si aspettano a livello di mercati i dati sulle scorte di petrolio in America. Perché? Perché di nuovo il prezzo del petrolio resta, a noi fa comodo, per carità, sotto pressione, anche se aveva avuto una risalita negli ultimi due giorni, era tornato a 45, verso i 46 dollari al barile, adesso sta perdendo circa un punto percentuale, di nuovo a 45. Attenzione però, il petrolio ormai direi da quando non si è arrivati all'accordo OPEC, non OPEC, due settimane fa, continua a stare stabilmente sotto i 50 dollari al barile. Per quello che riguarda invece, nella giornata economico-finanziaria, l'andamento di altri mercati, e mi riferisco in primo luogo a quelli valutari, segnalo che oggi il rapporto euro su dollaro vede l'euro a 1,06,7, quindi diciamo dalle elezioni di Trump non c'è stato un grandissimo movimento, però si era intorno a 1,08-1,09, adesso siamo intorno a 1,06,70 in questo momento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, chiedete giustamente su Sole 24 Ore, non ci sono novità in questo momento, come hanno riportato tutti, anche noi si è insediato un nuovo ministro delegato, adesso siamo in attesa, il gruppo è in attesa del nuovo piano industriale. Appena arriveranno notizie le daremo, come le diamo anche quando riguardano l'andamento del titolo in borsa. Partendo come sempre dallo scenario internazionale, per quello che riguarda non è una saga, diciamo, la cronaca delle nomine alla Casa Bianca, comunque continua a esserci un braccio di ferro all'interno della squadra di Donald Trump, perché si fronte, diciamo, del suo staff è spaccato da un lato sulla nomina di Rudy Giuliani a segretario di Stato, e quindi ancora non c'è un consenso. Poi sia su Giuliani, i fedelissimi lo vorrebbero agli esteri, c'è un braccio di, appunto, come segretario di Stato, braccio di ferro con il partito. Mentre Trump oggi è tornato a rassicurare gli americani che ha incontrato a New York, dove era a cena, anzi era a cena ieri con la sua famiglia, gli ha detto: abbasseremo le vostre tasse. La Federal Reserve invece potrebbe aumentare i tassi di interesse già a dicembre. Oggi uno dei presidenti federali della Federal Reserve di St. Louis, James Ballard, ha detto che dicembre potrebbe essere un momento ragionevole per alzare i tassi di interesse. Da Trump alla Brexit, perché oggi il Times insiste, dopo il controverso appunto pubblicato ieri sulle presunte divisioni in seno al gabinetto della Premier Theresa May, in cui emergeva che non c'era un piano per fare sta Brexit dentro il governo britannico, un piano inteso come un insieme di scadenze, appuntamenti, quella che insomma in inglese si chiama roadmap, oggi rilancia sempre il Times. Dice: l'esecutivo è ancora in preda al caos e alla confusione organizzativa. Questo rischierebbe di fare deragliare i piani negoziali per il divorzio dell'Unione Europea, ma anche di minare la tenuta del governo. Accuse che Downing Street, quindi Theresa May, ha respinto seccamente e ha detto, ed è anche arrabbiata con la Deloitte, la società di consulenza da cui è nato questo appunto, che poi è stato pubblicato dal Times, e anche con la BBC, accusata di aver dato credito al documento per mettere in difficoltà il governo. E Theresa May, sotto il tiro dell'opposizione, dei laburisti, dai laburisti agli indipendentisti scozzesi, che continuano ad accusare il governo di non avere un piano, una linea chiara per gestire la Brexit, l'uscita, il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Jeremy Corbyn, il leader dei Labour, ha detto: non avete un piano. Lei ha replicato: no, il piano ce l'abbiamo, ma il nostro obiettivo è strappare il miglior accordo possibile con l'Unione Europea. Solo che non ha chiarito come, ed è andata oltre, ha glissato bellamente. Vedo molte domande sul decreto fiscale. Allora, domani il Sole 24 Ore avrà in edicola uno speciale dedicato proprio alla parte allegata alla finanziaria, quindi il DL fiscale, il decreto fiscale, con tutte le novità di cui adesso parleremo, ovviamente per sommi capi, in maniera più esaustiva domani sul Sole 24 Ore. Ancora adesso andiamo alla manovra, quindi all'impianto della manovra sul doppio fronte, giudizio di Bruxelles e anche novità vere e proprie sulla manovra. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, partiamo proprio dalle ultime novità e dalla lista di paesi che Bruxelles ritiene a rischio, diciamo, di non ottemperanza, di non rispetto delle norme comunitarie. I wanna be free, set free. Allora, io non ho nessuna intenzione oggi di fare, ieri la dovuta, l'altro ieri pure, la puntata commentando i messaggi sul Sole 24 Ore. Ho già detto che quando vi saranno novità, oltre a quanto è già stato detto, c'è un bilancio, c'è una semestrale, ci sono articoli di giornale, le daremo. L'unica cosa, adesso le può scrivere quello che vuole, ma è così difficile capire che il Sole 24 Ore è un'azienda fallita. Allora, guardi, io non so se lei goda o non goda, non me ne frega nulla. Quello che continuo a ribadire è: possiamo parlare del prodotto Sole 24 Ore? Se non le piace il prodotto, può cambiare radio, può cambiare giornale. Se lo ritiene affidabile, continui ad ascoltare la radio e continui a ascoltare e a leggere il giornale, no? Allora, andiamo invece sulla manovra economico-finanziaria. Perché? Perché da questo punto di vista io vorrei partire in maniera leggermente alta, se posso oggi, visto la qualità di alcuni messaggi, e cioè con Stiglitz, il premio Nobel all'economia, interpellato oggi a margine di un'audizione al Parlamento europeo sul confronto proprio tra la Commissione europea e il governo italiano in tema di flessibilità, no? Austerità sì, insomma, lo scontro tra Renzi e Juncker di questi ultimi giorni. Con buona pace di chi dirà che Stiglitz tira la volata a Renzi, e il premio Nobel dice quello che vuole e dice che ha ragione l'Italia. Concordo sul fatto che Renzi debba combattere l'austerità. È evidente che l'austerità sta colpendo l'Italia come sta colpendo altre nazioni nelle periferie, e sfortunatamente l'Eurozona non sta dando a Renzi lo spazio di manovra che egli sembrava voler adottare. E devo dire che noi questa linea l'abbiamo sempre sostenuta ben prima che arrivasse Renzi. La sostenevamo con Monti, la follia dell'Europa tutta con la marcia dell'austerity in granata, e c'era Monti al governo, c'era poi anche prima c'era Berlusconi, poi c'era Monti, poi c'era Letta, quindi su questo non cambiamo idea. Il motivo per cui poi Renzi abbia adesso alzato il livello dello scontro con Bruxelles, se il motivo sia politico per il consenso interno sui referendum, mi interessa relativamente poco. Come diceva Mao, piuttosto a me non interessa che il gatto sia nero o bianco, basta che becchi il topo, che catturi il topo. Quindi a me basta che si ponga un principio in Europa, che con questa austerità siamo l'unica area geografica al mondo ad aver conosciuto due recessioni, in parte, tranne la Germania e i paesi satelliti. Comunque, andiamo avanti. Oggi anche il ministro Padoan ha detto se l'Unione Europea sta togliendosi di mezzo l'austerità e ha introdotto la novità di chiedere ai paesi che hanno spazi di bilancio per spendere che lo facciano. Si tratta di una grande vittoria dell'Europa e l'Italia rivendica di essere stato il primo paese ad averlo messo sul tavolo. Oggi Renzi è tornato, basta con l'austerità, l'austerity suicida, servono più opere pubbliche. La cultura dell'austerity ha fatto dimezzare gli investimenti pubblici in Italia con una riduzione di 20 miliardi di finanziamenti, è un ragionamento filosofico suicida. E poi se parte il sud l'Italia diventa la locomotiva d'Europa, il terzo trimestre è meglio di Francia e Germania, quello l'abbiamo detto ieri, se uno guardava il congiunturale sì, se guardi il tendenziale no, cioè trimestre su trimestre abbiamo fatto più 0,3, meglio di Francia e Germania, se guardiamo terzo trimestre rispetto a un anno prima, cioè allora invece la crescita è più lenta di Francia, di Germania, di moltissimi paesi, lo 0,9 tendenziale e lo 0,8 acquisito. Oh, la notizia dell'INPS invece riguarda i primi 9 mesi quanto a licenziamenti e allora più 4% licenziamenti, ma soprattutto quello che balza agli occhi sono i più 28% i licenziamenti per motivi disciplinari. Il presidente dell'INPS Boeri spiega che questo dato è dovuto alla che ha avuto maggior effetto sull'aumento dei licenziamenti disciplinari è l'introduzione delle dimissioni online. Questa normativa, secondo Boeri, ha di fatto portato a una riduzione delle dimissioni volontarie perché la procedura, dice Boeri, è troppo complicata soprattutto per gli stranieri e quindi un aumento dei licenziamenti disciplinari. Oh, vedo adesso le scorte, mi interrompo un secondo, apro una brevissima parentesi, le scorte di petrolio, la Russia si aspetta che l'OPEC riesca a concordare un congelamento della produzione di petrolio, è appena arrivata l'agenzia nella riunione formale a Vienna il prossimo 30 novembre e infatti il petrolio rimbalza anche su questa notizia e quindi il fatto che la Russia sia convinta di arrivare a un accordo con l'OPEC entro il 30 novembre. Ho una buona notizia appena arrivata invece e la voglio leggere, non ho dimenticato il tema, ci mancherebbe, riguarda Veneto Banca, ricorderete, caso clamoroso assieme a Popolare di Vicenza. Allora, l'Assemblea di Veneto Banca ha approvato a grande maggioranza l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici per il dissesto dell'istituto di credito e quindi interesserà i componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale di Veneto Banca, in carica sino al 26 aprile 2014, nonché Vincenzo Consoli, in qualità di direttore generale sulla base e nei limiti delle responsabilità riscontrabili e imputabili a carico di ciascuno. I sì sono stati pari al 99,9%. Bene le azioni di responsabilità nei confronti degli ex manager, bene a qualunque livello, prima che me lo scriviate, e dovesse valere, come ha detto ieri l'azionista, per il Sole 24 Ore, bene anche sul Sole 24 Ore, ma lo dico non nel caso specifico nostro di Veneto Banca, perché è ora che i consigli di amministrazione e gli amministratori delegati capiscano e non si può fare quello che si vuole, prendere bonus e andarsene a casa. Mi riferisco a Consoli? Sì, per ora mi riferisco a Consoli, ovviamente, no? Visto che l'azione di responsabilità di Veneto Banca e che esiste anche la possibilità di pagare le conseguenze dopo, perché quello che abbiamo visto accadere Veneto Banca, Popolare di Vicenza, esce da ogni grazia di Dio. Qui mi fermo e poi vedremo se ci saranno altri casi. Allora, Adriana Ceretelli, di nuovo con noi, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera, Adriana. Buonasera. E buonasera anche a Franco Bruni, docente di economia monetaria. Non ho ancora il collegamento, Bruni è caduto, lo chiamiamo dopo. Allora Adriana, partiamo con te sul giudizio di Bruxelles, che dice la manovra 2017 è a rischio di non rispettare i requisiti del patto dell'Unione Europea perché potrebbe risultare una deviazione significativa dall'aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine assieme a noi, Belgio, Cipro, Lituania, Slovenia, Finlandia. Giudizio rinviato in primavera. Dombrovskis, il commissario, annuncia tra l'altro a breve un rapporto sul debito italiano. Sentiamo questo passaggio. Per 15 paesi inclusi nell'ambito preventivo ci sono 5 piani di bilancio che sono conformi ai requisiti: Germania, Estonia, Lussemburgo, Slovacchia e Paesi Bassi. Ci sono poi 4 paesi che giudichiamo ampiamente conformi e si tratta di Irlanda, Lettonia, Malta e Austria. Gli altri 6 paesi sono invece a rischio di non conformità e sono Belgio, Italia, Cipro, Lituania, Slovenia e Finlandia. Belgio e Italia, che sono al momento in ambito preventivo del patto di stabilità e crescita, devono rispettare la regola del debito e la Commissione presenterà i relativi rapporti a breve. Allora, che cosa vuol dire a breve, Adriano, un rapporto sul debito italiano, ma soprattutto quanto è importante questo giudizio? Perché se ricordo bene, poi in realtà il giudizio più importante è quello di carattere politico che darà l'Eurogruppo. Sì, infatti. Dunque, vabbè, il rapporto sul debito, per rispondere a quello che mi hai chiesto, dovrebbe, non ha precisato quando, ma poi ha detto un mese o due, quindi così, realisticamente probabilmente in gennaio. Mm-hmm. Dunque, invece, il giudizio sull'Italia, diciamo che la Commissione ci ha graziato, nel senso che ha naturalmente detto quello che doveva dire, cioè che non tutto è perfetto nella manovra, ma ci sono delle deviazioni, quello che avevo sempre detto sul deficit strutturale e gli impegni che avevamo preso in proposito e appunto sul debito. Però nello stesso tempo ci ha concesso quello che chiedevamo in flessibilità per le spese dei migranti e per il terremoto, e in questo caso non solo, diciamo, l'emergenza terremoto in sé, ma anche quello che chiede il governo italiano, cioè le spese per la ricostruzione, per la messa in sicurezza dei territori, eccetera, eccetera. E questa è sicuramente una grossa concessione. Ma il punto è quello che dicevi tu, cioè la Commissione fa questo rapporto, questa pagella sulla finanziaria italiana, ma sarà appunto l'Eurogruppo quello che darà il giudizio. Anzi, per certi aspetti, oggi si è avuta quasi l'impressione che la Commissione facesse un po' come Ponzio Pilato, cioè spendesse la pagella, ma poi lasciasse l'Eurogruppo il compito di promuoverla o meno. E naturalmente, siccome l'Eurogruppo si riunirà il giorno dopo il referendum, è molto probabile che possa dare un giudizio meno comprensivo di quanto la Commissione abbia dato oggi, sia pure su un input indiretto della Germania, che non vuole la destabilizzazione italiana, ma comunque è molto probabile che i ministri saranno più severi di quanto non siano. Più severi. Infatti oggi ho visto che l'eurodeputato tedesco Manfred Weber, oggi rieletto capogruppo del PPE, ha detto, a proposito del conflitto tra Commissione Europea e Governo italiano sulla manovra: non possiamo fare come negli ultimi decenni, continuando sulla strada del debito. Questo non creerà il futuro, più debito distruggerà il futuro. Per quanto mi riguarda il caso particolare dell'Italia, sta facendo fronte ai fardelli aggiuntivi sui migranti e il terremoto. Questi costi aggiuntivi dovrebbero essere presi in considerazione dalla Commissione, credo che lo stiano facendo. Sul tema spese per migranti e sisma ha parlato anche il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici. Lo ascoltiamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. I paesi che hanno margini in bilancio dovrebbero spendere e investire di più per il proprio paese e nell'interesse di tutti. I paesi che invece ancora non hanno raggiunto gli obiettivi devono concentrarsi soprattutto sul rispetto degli obiettivi di bilancio. Per Cipro e Italia i divari sono maggiori, anche se nel caso dell'Italia un'ampia parte della deviazione è dovuta ai costi associati ai recenti eventi sismici, quest'anno molto gravi e drammatici, oltre che alla gestione dei flussi migratori. E la Commissione terrà conto di questi due elementi. Allora, così il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, ne terremo conto, le fonti stimano in 7 miliardi la stima italiana dei danni per il terremoto in agosto nel centro Italia, sono compresi anche i costi per la prima parte della gestione dell'emergenza e la cifra figurerebbe nel documento presentato a Bruxelles per attivare il fondo dell'Unione Europea di solidarietà. A questa cifra bisognerà poi aggiungere la stima dei danni e dei costi per la prima emergenza e per il terremoto di ottobre. Tra l'altro l'Italia appunto ha presentato oggi la richiesta per attivare il fondo di solidarietà. Adriana, mi sembra che comunque al di là del tema del debito, l'austerity, no, non c'è più il debito, però non può essere aumentato, sul fronte flussi migratori e terremoto mi sembra che la posizione sia un po' più morbida, o sbaglio? No, è assolutamente. Rispetto diciamo, cioè, ai dubbi iniziali. Vengono accolte le richieste italiane in termini di flessibilità, anche come entità, sia sui migranti, sia sulla questione del terremoto, sia per i danni, sia per la ricostruzione. Mm-hmm. Quindi è sicuramente una concessione notevole che viene fatta, previo naturalmente controllo all'inizio dell'anno prossimo, che tutte le cose si siano svolte secondo le regole, nel rispetto delle medesime. Sicuramente c'è questo, c'è naturalmente il fatto che appunto l'Italia non rispetta ancora gli impegni in fatto di deficit strutturale e nemmeno di debito. Ma direi che è un po' lo spirito che è cambiato in generale, o perlomeno la Commissione tenta di farlo cambiare, nel senso che da una parte appunto propone per la prima volta questa sua orientamento di politica economica, con la proposta di aumentare dello 0,5% l'anno prossimo il ritmo della politica espansiva a livello europeo. E al tempo stesso appunto adotta anche, non solo nei confronti dell'Italia, ma nei confronti della Spagna e del Portogallo, non so se vi ricordate, avrebbero dovuto essere entrambi multati in quanto non avevano rispettato i rispettivi impegni per il rientro su deficit. In realtà poi ulteriori impegni sono stati presi, al punto che oggi hanno ritenuto alla Commissione di non dover proporre neppure le sanzioni che erano state in qualche modo paventate. Quindi, ma questo è importante sottolinearlo, perché inizialmente, quando l'Italia iniziò a dire attenzione, c'è tutta la voce extra deficit di spese per i flussi migratori e terremoto, qualcuno iniziò a dire adesso vediamo quanto sarà. Mi sembra che invece sia passata la linea che insomma, l'Italia chiede il Fondo Europeo di Solidarietà sul fronte terremoto, e nessuno sta più obiettando la necessità di avere extra budget queste risorse. Il tema invece, lo dico a chi scrive, riguarda ancora il debito, ossia deficit strutturale, il deficit che tu hai al di là della congiuntura esterna, le variabili esterne, che secondo Bruxelles non va a calare come avevamo promesso. Il ministro Padoan obietta che c'è un diverso, diciamo così, meccanismo di calcolo, non vorrei entrare nel tecnico, e poi il debito invece sì, perché il problema dell'Unione Europea è che con questi tassi di crescita il debito italiano risulta troppo alto. Professor Franco Bruni, che adesso saluto, che ci ha raggiunto, insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Ecco, anche a chiosa di quanto ricordava adesso Adriana Ceretelli, possiamo dire che almeno la buona notizia è che non si discute più se e quanto considerare come spese di extra deficit, terremoto e flussi migratori. È d'accordo anche lei che però, visto tutta la situazione politica, e mi riferisco al 4 dicembre in Italia, elezioni in Germania e quant'altro, la vera partita sarà quella dell'Eurogruppo con i presidenti del Consiglio? Cioè, la vera partita per via libera sulla nostra legge di stabilità? Sì, non c'è dubbio. Quello che notavo in quanto dicevate prima però è che si tiene molto distinto il problema del deficit e il problema del debito. In realtà il problema è il debito. La ragione per cui a noi fanno le pulci sul livello del deficit, che non si riduce abbastanza, è che abbiamo il debito molto alto. E il debito purtroppo è un problema che rimarrà per tanto tempo, non è solo nostro, perché anche altri paesi hanno dei debiti abbastanza alti, e se la politica monetaria cambia, se i tassi di interesse salgono, è un guaio che a quel punto non c'entra più la Commissione, sono i mercati che avranno difficoltà a finanziarci. Quindi questo è il primo problema che dovremmo affrontare un po' tutti insieme, credo, in Europa, perché è un problema che per noi è più duro che per altri, ma è una questione mondiale, direi, perché non è indifferente persino per gli Stati Uniti. Il secondo problema è che c'è un'incertezza di fondo di tipo politico che impedisce al PIL di crescere, perché impedisce agli investimenti di crescere. Questa incertezza di fondo è nazionale, e noi abbiamo un caso clamoroso con il nostro 4 dicembre, eccetera, ma è anche europea, perché l'Europa è a pezzi da un punto di vista politico, e adesso queste decisioni di oggi mi sembra che siano, in un certo senso, possono avere un effetto lievemente positivo, però siamo lungi dal dare agli investitori un quadro europeo confortante, perché c'è qualcuno che ci protegge da rischi futuri, bancari e quant'altro. Insomma, siamo senza solidarietà, e oggi abbiamo anche il rischio americano, che è colossale, è un rischio di tipo politico ed economico generale. Quindi con questi rischi è difficile pensare che gli investimenti riprendano. Quindi questi sono i due punti su cui bisogna in qualche modo lavorare, una discussione comune sul debito e sulla politica monetaria, che sono molto collegati, e una discussione comune proprio di tipo strettamente politico sull'integrazione europea e sulla stabilità politica mondiale, perché sennò gli investitori si rifiutano di andare avanti. Ecco, allora, dopo il traffico vorrei continuare con questo tema, mentre ringrazio Adriana Ceretelli che ci deve lasciare, perché uno potrebbe anche obiettare: sì, il problema del debito italiano non è il valore assoluto, cioè il numero che è il suo debito, ma il rapporto debito-PIL, e quindi è un rapporto, non è il numero assoluto. Se il problema è il rapporto debito-PIL, finché il denominatore, cioè il PIL, continua a crescere così poco, è chiaro che il tuo debito risulterà sempre, diciamo, a rischio sostenibilità. E però uno aggiunge anche: perfetto, il PIL cresce poco perché abbiamo avuto politiche, lì c'entra il deficit, anno per anno, di austerità. Renzi oggi ricordava 20 miliardi in meno di investimenti pubblici. La convince questo ragionamento? Dopo il traffico e la risposta. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta per adesso la parte di Focus Economia dedicata ai mercati, però vorrei sentire la risposta di Franco Bruni. Allora, dà l'idea di un qualcosa che è sostanzialmente che si autoalimenta, cioè il debito non è sostenibile perché abbiamo un PIL che cresce troppo poco. Finché il PIL cresce troppo poco, il debito risulterà in proporzione sempre essere troppo alto. Però il PIL, sostiene il governo ma anche molti economisti, non cresce abbastanza perché sono stati tagliati gli investimenti pubblici 20 miliardi, diceva oggi Renzi, e quindi per colpa del rispetto del deficit che ci chiede l'Europa. Rispondo anche a alcuni ascoltatori: siamo d'accordo sulla spending review, però attenzione, la spending review, al di là di ridurre l'ammontare complessivo della spesa pubblica, che in proporzione agli altri paesi non è così fuori controllo, deve migliorare la qualità della spesa pubblica, cioè elevare risorse improduttive e portarle su elementi produttivi, non è solo l'ammontare. Comunque, professor Bruni, che cosa non la convince, ammesso che non la convinca, in questo ragionamento? Insomma, è un ragionamento che ha la sua logica, naturalmente. Io vorrei osservare, numero uno, che non è vero che conta solo il rapporto. Per i mercati conta anche il solo numeratore. Quando si arriva ad avere dei debiti così grossi, in senso assoluto, indipendentemente dal PIL, il mercato deve assorbirli, deve tenerli, e bisogna badare anche a quello. Per quanto riguarda il rapporto e quindi la crescita, certo l'austerità non ha aiutato la domanda, però credo che ci sono altri elementi molto importanti, intanto l'incertezza e la confusione politica, e secondo la mancanza delle riforme, quello che ha detto lei un attimo fa, cioè la qualità della spesa e anche direi della tassazione, che è stata più volte manipolata in modo inadeguato e non è stata riformata come dovrebbe. Questo è un paese in cui non si riesce ad andare avanti con la riforma della giustizia, notizia di oggi, perché c'è un blocco corporativo di un certo tipo, eccetera. È un paese in cui non si riesce ad andare avanti con la riforma della concorrenza, perché il governo, per avere consenso politico, rinvia. E questo non è un paese dove partono gli investimenti, è d'accordo gli investimenti pubblici, ma fino a che non partono quelli privati il vero sviluppo non c'è. Sì, lei sa l'obiezione che viene fatta in questi casi, che l'investimento non riparte per il clima economico che lei ricordava, ma anche forse per una mancanza di investimenti pubblici. Comunque, guardi Bruni, io sono d'accordo con lei per quello che vale sul fatto che oggettivamente rasserenare il clima politico europeo servirebbe anche a rasserenare il clima economico e quindi la volontà di investire. Non manca la liquidità, lo dico a chi scrive in questo, cioè c'è una cosa che non manca nell'economia mondiale e anche a livello europeo, è la liquidità. Draghi sta immettendo 20 miliardi di euro a settimana sull'area euro, non dico quanti ne ha immessi la Fed, è arrivata a 160 miliardi al mese di dollari, per cui non manca la liquidità, manca la voglia di investirla, possiamo dire così Bruni? Sì, solo che anche quella liquidità che viene immessa fino adesso non è che sarà lì per sempre, no, andrà avanti per sempre, quindi dobbiamo sbrigarci, ma abbiamo già perso molto molto tempo. Speriamo che anche io non vedo, lei forse è più ottimista di me, io non vedo dietro l'angolo un'Europa che smette di essere politicamente incerta, non fosse altro per tutte le scadenze elettorali che abbiamo nel 2017 però. Ma fra un anno, se c'è anche il pericolo Trump, che può essere, diciamo, in un certo senso interpretato in senso favorevole, e se le elezioni e i referendum andassero bene, chissà, ma vedremo. Di questo non parlo. Grazie anche a Franco Bruni, andiamo sulla borsa. Allora, c'è qualcuno che mi scrive: gli investimenti privati non partono a causa delle tasse, lo volete capire? Sì e no. Guardi, la pressione fiscale ha, ahimè, un grosso potere di distruzione del potere d'acquisto di chi abita, per esempio, in questo paese. Gli investimenti non vengono fatti sì anche in parte sulla pressione fiscale, ma su quello che si chiama clima economico. Quindi l'Italia ha altri grossi problemi: lentezza della giustizia civile, burocrazia, poca certezza della norma. Gli investitori chiedono di avere una legge di riferimento che non cambi a ogni manovra di stabilità o ogni governo. E poi il clima. Se tu pensi che l'Europa sia ancora in un caos di quella che si chiamerebbe governance, cioè chi decide, come si decide, dove andrà a finire, beh, è ovvio che aspetti a investire. Ma le tasse non sono il primo o il principale elemento. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Parleremo con te dopo il GR24 della borsa. Meno 0,70% Milano, assolutamente in linea con Parigi e Francoforte. Peggior titolo la Pop Milano, meno 4,70%. Miglior titolo Fiat Chrysler, più 2,20%. 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms e whatsapp, nonché poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni. Commentiamo adesso la borsa. Meno 0,70%, dicevamo, l'indice complessivamente dato. DAX meno 0,70%, Francoforte meno 0, Parigi meno 0,70%, Londra meno 0,60%, euro su dollaro quota 1,07. I titoli: Fiat Chrysler più 2,20, Hughes più 1,80, Leonardo più 1,30, Italgas più 1,20 come A2A, CNH Industrial più 1%, fronte opposto Pop Milano meno 4,70, Banco Popolare meno 4,20 come Unicredit, il 4% lo perde Ubibanca, il 3% la Popolare Emilia Romagna ed Azimut, il 2,60 Campari e Fineco Bank, e il 2,30 Monte dei Paschi, il 2% è il calo di Mediolanum e di Ferragamo. Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, al di là del petrolio che adesso sta un po' recuperando per via di questa dichiarazione russa che punta a un accordo con l'OPEC il prossimo 30 novembre, Fiat si muove bene su notizie americane. Sì, e si tratta più che altro di un rimbalzo. Ieri il titolo aveva sofferto molto negli Stati Uniti per via di questa denuncia fatta da alcuni clienti proprietari di modelli Dodge per eccessive emissioni inquinanti, una denuncia che, a cui Fiat ha risposto con una nota dicendo di non credere che insomma ci sia qualcosa di rilevante da segnalare, che quindi le denunce siano diciamo di impatto trascurabile, ma chiaramente lo spettro e la sensibilità dei titoli alla questione Dieselgate abbiamo visto come è molto alta, quindi oggi diciamo questa precisazione di Fiat ha permesso un rimbalzo del titolo, peraltro nel giorno in cui a Los Angeles viene presentata la nuova Stelvio dell'Alfa Romeo, e quindi diciamo anche un'attenzione sui nuovi modelli che il mercato non sottovaluta. Però buona notizia oggi, appunto opposta ai timori di ieri. Fronte opposto invece Ferragamo, abbiamo visto essere oggi particolarmente debole, meno 2%, e poi tutta la pattuglia delle Popolari e di Unicredit, perché insomma sono cali Ubi, Unicredit, Banco Popolare e Pop Milano del 4,20, 4,30, 4,70%. Sì, per quanto riguarda Ferragamo un'altra seduta sotto pressione, perché i conti non erano stati accolti positivamente già ieri in borsa. In particolare il terzo trimestre ha visto un utile intorno ai 22 milioni, in calo dell'8%, nonostante comunque ricavi in crescita, e anche i margini operativi sono calati a 50 milioni di euro. Invece effettivamente una debolezza complessiva per tutto il settore delle banche in Europa è stato il peggiore, l'indice ha perso l'1,2% e male anche le nostre banche, a cominciare dalla Banca Popolare di Milano e dal Banco Popolare, anche per via di raccomandazioni non troppo positive da parte di banche d'affari, nello specifico di Barclays, ma anche Unicredit e UBI e Banca hanno sofferto, quindi la tenuta delle banche dell'ultima settimana, della settimana post-Trump, sta vedendo un aggiustamento complessivo in tutta Europa. Ricordiamo che domani l'attenzione sarà posta sull'intervento di Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve, il primo intervento pubblico dopo le elezioni americane, quindi una forte tensione sul tema delle valute e dei tassi, che si è evidenziata ancora oggi con i rendimenti dei titoli di Stato e per quanto riguarda gli italiani risaliti sopra il 2%, un allargamento dello spread a 173 punti base per quanto riguarda BTP Bund tedesco. E questo per quello che riguarda il mondo bancario. Vorrei concludere su Mediaset, ma non solo per andamento del titolo, ma perché oggi vi è stata una conferenza stampa, si attendevano notizie sul fronte Vivendi, il titolo ha perso l'1%. Sì, Mediaset aveva aperto positivamente perché le indiscrezioni circolate sulla vendita di alcune esclusive, di diritti esclusivi da parte di Medusa, la società di produzione cinematografica di Mediaset, a Sky, aveva fatto ipotizzare da qualche operatore che i rapporti con Sky fossero ripartiti e fossero tali da promettere qualche operazione importante sul fronte di premium, visto lo stallo con Vivendi, che ormai dura da da 3-4 mesi. In realtà durante questa conferenza stampa, dove sono stati presentati i palinsesti della Pay TV, cioè di Premium, sia il direttore finanziario di Mediaset Giordani, sia il numero uno di Premium Franco Ricci hanno precisato che non ci sono in arrivo accordi né sul fronte Sky né tantomeno sul fronte Vivendi, che aspetta la prossima settimana con la prima udienza in tribunale importante, dopo lo stallo e il mancato conclusione dell'accordo di vendita di Premium, e quindi questo ha un po' indebolito le prime scommesse della giornata, facendo indietreggiare il titolo dell'1%. Allora andiamo avanti anche con il resto, migliori e peggiori della seduta. Primi sui motori più 13%, gruppo Waste Italia più 7,5%, Digital Magic più 7,5%, Innovatech più 5,40%. Fronte opposto, Heidelberg Cement meno 7,80, Trevi Finanziaria meno 11, Open Job Metis meno 8%, PRL meno 6,70%, Gabetti meno 4,90%. Grazie anche Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Traffico, e poi ci occupiamo della parte fiscale. Una parte è il decreto fiscale del governo, che oggi la Camera ha licenziato, come si dice in gergo, e va al Senato. L'altro riguarda invece la novità sulla decontribuzione per i giovani o i disoccupati assunti al Sud, decontribuzione totale, ossia identica, da quello che ha detto oggi il Premier, a quella del 2015, che valeva per tutto il Paese, quindi fino a un massimo di 8.000 euro di contributi all'anno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Su tutto il 2017 chi creerà posti di lavoro al Sud, solo al Sud vale questa, avrà la decontribuzione totale, come il Jobs Act all'inizio. Questa è una notizia che credo sia importante per voi, lo dico ai lavoratori, perché? Perché quando con i posti di lavoro hai recuperato la situazione al nord, ma hai un sud che soffre, abbiamo messo 730 milioni di euro, il direttore dell'ANPAL, il professor Dal Conte, sta firmando adesso, ci siamo organizzati perché io lo potessi dire il giorno in cui firmava questo provvedimento, decontribuzione totale esattamente come il Jobs Act con il 100%, quindi un'operazione che credo da fare con gli investimenti, con le assunzioni del 2017, cioè l'operazione triennale, ma con gli investimenti da fare con i posti di lavoro da assumere nel 2017. Allora, questo è l'annuncio di Renzi. Devo dire che ci sono altre novità, per esempio, che riguardano non solo questa è una cosa che va in manovra finanziaria. C'è allegato, diciamo, alla manovra il decreto fiscale. Le novità non mancano, anche perché, per esempio, da quello che ho visto anche sul Bancomat, il fisco vorrà spiegazioni sui prelievi di contanti, chi supera i 1.000 euro al giorno e 5.000 al mese. Andiamo con ordine, visto che il Sole 24 Ore domani avrà tutto uno spazio dedicato proprio al decreto fiscale, che non è ancora legge perché deve andare al Senato, però oggi la Camera l'ha licenziato. Giovanni Parente, buonasera. Buonasera a voi. Allora, c'è anche la parte del Bancomat, o quella è una cosa parallela, perché ormai le agenzie stanno battendo fuori di tutto, però dovrebbe essere dentro il decreto fiscale la parte del Bancomat e dell'Agenzia delle Entrate, no? Sì, assolutamente sì. Diciamo però una cosa, quella non è una norma nuova, è una cosa che già esiste da tempo, sono a 1973 per l'esattezza. In questo caso viene però fissato un limite di giustificazione per il contribuente, questa è una norma pro contribuente. Cioè praticamente saranno considerati, non saranno considerati indicatori di evasione fiscale i prelievi di titolare di redditi di impresa fino a 1.000 euro giornalieri e fino a 5.000 euro mensili. Quindi è una misura che va incontro al contribuente, questo la dice lunga anche sul clima che c'è, perché diventa difficile anche per noi valutare le notizie. Fai bene a ricordare che già adesso il fisco può utilizzare i tuoi prelievi via Bancomat come forma di accertamento fiscale. la nuova norma dice sotto i 1000 euro al giorno e i 5000 euro al mese non vai a non devi giustificare e non vai a essere oggetto di attenzione fiscale. Veniamo alle cose più consistenti invece. Vabbè, abolizione di Equitalia che entra anche come dipendenti, diciamo, dal 1 luglio 2017 tutte le attività di riscossione saranno gestite dall'Agenzia delle Entrate. Rottamazione delle cartelle e dell'Iti Vorrei e dei comuni e anche per i comuni non Equitalia. E poi la voluntary disclosure bis, quelli che alcuni chiamano il condono fiscale mascherato. Andiamo sui due aspetti. Il primo, rottamazione delle cartelle per i ruoli fino al 2016, il secondo, voluntary disclosure bis. Allora, diciamo che sulle cartelle di Equitalia è stata fatta un'operazione estensiva. Saranno ammesse a questa sanatoria anche le cartelle, i ruoli che vengono notificati fino alla fine di quest'anno, quindi il 2016, che era escluso originariamente dal testo del decreto legge. In più ci sarà maggior tempo per poter presentare la domanda di adesione. La richiesta da parte del contribuente va presentata entro il 31 marzo ad Equitalia poi risponderà entro il 31 maggio. Altra novità di rilievo, come giustamente ricordavi tu, è che la rottamazione si estende anche a quei 4.500 comuni che non riscuotono attraverso Equitalia, ma utilizzano lo strumento dell'ingiunzione di pagamento. In questo caso però sarà necessario che siano i comuni poi a deliberare singolarmente se procedere o meno con la partecipazione a questa definizione agevolata. Ecco, per i comuni, no, questo è importante perché immagino che alcuni ascoltatori abbiano delle cartelle anche con i comuni, tipicamente le multe, ma non solo, tasse sui rifiuti. I comuni lo possono fare come base volontaria, cioè se un comune usa Equitalia la rottamazione c'è, se invece non la usa può farlo ma non è obbligato, capito bene? Esattamente, deve deciderlo se aderire o meno a questa procedura di rottamazione delle vecchie cartelle. Quindi insomma bisogna aspettare comunque un atto da parte del comune che ha 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione, cioè quindi quando sarà poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E quindi insomma dovrà decidere e verificare appunto se c'è la convenienza o meno a procedere alla rottamazione delle vecchie cartelle. E questo, ricordo, che cosa vuol dire rottamazione? Vuol dire sostanzialmente che tu estingui il debito con il fisco senza pagare però le sanzioni e gli interessi che prima erano previsti in 5 rate, no? 3 nel 2017 e 2 nel 2018. Alcuni hanno lamentato, beh, ma se però la cartella è molto alta, 5 rate sono poche. È un problema serio questo, perché... No, nel senso che tu, immaginando di avere... perché prima Equitalia ti dava una rateizzazione più favorevole, almeno quella, no? Esattamente, la possibilità di rateizzare è addirittura a 72 mesi, quindi 6 anni, che posso addirittura diventare 10, 120 rate, se ci sono particolari condizioni di difficoltà economica. Qual è il discorso? Che queste procedure di rateizzazione comprendono tutto il monte sanzioni, interessi di mora che dicevi giustamente tu, invece la rottamazione ti dà uno sconto, quindi paghi di meno, ma devi pagare più rapidamente. Questo è il problema. L'unica cosa che consiglierei di fatto ai radioascoltatori è di fare una verifica preventiva, perché se poi si aderisce alla rottamazione e non si paga una rata, si perde anche la possibilità di ritornare al piano di rateizzazione precedente. No, questo è importante perché magari avevi 13 rate, ne hai solo avevi 13 rate, ma sostanzialmente riuscivi a estinguere un debito col fisco più alto, perché c'erano anche gli interessi di mora e le sanzioni. Però con la rateizzazione più favorevole, di fronte a un debito alto in 5 rate, attenzione bene, fate bene i conti prima di aderirvi. Questa è una raccomandazione e leggete solo 24 ore domani che ha tutta una sezione dedicata a questo. Voluntary disclosure bis invece. Esatto, riapre anche il rientro dei capitali, ci sarà possibilità. Ecco, rientro dei capitali ma anche i contanti. Io mi sono perso, dimmi. Esatto. Allora, un'ulteriore precisazione, anche nella precedente edizione della volontà di discorso era possibile sanare il contante, quindi si è fatta molta polemica prima che questo decreto legge venisse varato, perché si pensava inizialmente all'introduzione di una sorta di forfait, che non è stato introdotto. Adesso però in sede di conversione del decreto legge fiscale viene previsto che chi vuole aderire alla sanatoria del contante e non l'ha fatta nella precedente edizione della voluntary disclosure, ma ha fatto la voluntary disclosure, possa comunque avere questa nuova opportunità. Perché di fatto prima nel testo originario c'era una preclusione. Se tu hai fatto la volontari precedentemente e adesso vuoi di nuovo accedere alla sanatoria, non avresti potuto farlo. Invece si può sanare il contante, naturalmente pagando tutte le imposte, questo deve essere chiaro, avendo uno sconto relativo sul un relativo vantaggio sulle sanzioni, anche se si è aderita alla prima edizione della voluntary disclosure. Allora, questo per quello che riguarda il decreto fiscale. Invece in legge di stabilità, e qui saluto un altro collega del Sole 24 Ore, Claudio Tucci, buonasera. Buonasera. Come ascoltavamo prima dalle parole del Premier Renzi, è emersa abbastanza sorpresa questa decontribuzione totale per chi assume al sud. Che caratteristiche ha? Cioè, giovani disoccupati, ma in che termini, Claudio? Sì, in realtà ecco, non è proprio una legge di stabilità, è un collegato. Un altro collegato. Un atto ufficiale dell'ANPA, la nuova agenzia per le politiche attive. Di fatto che è designata dal Jobs Act, di fatto è il primo atto e parte ufficialmente. Arrivano sgravi fino a 8.060 euro totali per le assunzioni di giovani senza under 24, senza di fatto vincoli. E nella fascia 24-50 anni devono essere privi di regolare occupazione per 6 mesi. Qui praticamente si utilizzano, ed è un utilizzo destinato appunto dall'atto che è stato firmato qualche ora fa appunto dal presidente dell'ANPA, le fondi europei. 780 milioni, no? Sono 500 una prima tranche, 530 milioni. Si salirà a 730 rafforzando un'altra misura all'atere di questa che deriva da Garanzia Giovani e varrà per tutta Italia. Questa però, questi 200 milioni ancora sono... ancora deve essere finalizzato l'atto che li formalizza, mentre ecco il via libera è stato dato appunto un paio d'ore fa a questa prima tranche di 530 milioni che servirà appunto ad incentivare le aziende del sud, nelle regioni appunto dell'obiettivo convergenza che possono essere utilizzati i fondi europei per appunto per assunzioni a tempo indeterminato. Ne beneficeranno chiaramente i datori di lavoro privati e i contratti incentivati sono appunto contratti a tempo indeterminato e il contratto anche di apprendistato, che ricordiamo, no? Dopo le ultime riforme è di fatto un contratto di lavoro stabile che può essere poi successivamente stabilizzato. E la misura appunto, diciamo, non è la prima volta che si utilizzano fondi europei al sud, ricordiamo che nel 2012 c'è stato l'incentivo, 2013, l'incentivo Giovannini, che ha avuto però uno scarso appeal. Qui perché si spera, il governo Renzi oggi lo annuncia così tanto in modo enfatico? Perché si eliminano una serie di vincoli che sono stati utilizzati nel 2013 dal precedente governo, cioè la fruizione diventa molto semplice, bisogna essere appunto, non ha vincoli di fatto per gli under 25, mentre per la fascia d'età 24-49 in su sì, di fatto è legato esclusivamente ai 6 mesi, cioè al non avere, non devi aver lavorato per 6 mesi, mentre ricordo precedentemente ci serviva anche il titolo di studi, cioè non essere almeno diplomato, un titolo di studi inferiore, sì, infatti non fu un gran successo nel 2013, vedremo come andrà questa volta. Lo stanziamento è appunto, come tu ricordavi, in due tranche complessivamente 780 milioni di euro. Grazie anche a Claudio Tucci, oltre che a Giovanni Parente. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.